Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buon sabato a voi che avete deciso di ascoltare Obiettivo Salute Weekend. Ottima idea, anche perché oggi la puntata è dedicata a chi ha le pile scariche, a chi fa fatica a fare, a non fare, a dormire, a stare sveglio. Oggi voglio proprio occuparmi di chi si sente stanco, bollito, alla frutta, esaurito, insomma, come dite voi, c'è un modo, un'espressione, un'immagine che meglio descrive la situazione in cui vi trovate in questo momento? Bene, allora scrivetemela a obiettivosalute@radio24.it. Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio sedere. Sono stanco. Sono stanco, non ne posso più, è il ritornello un po' di questi giorni. E anche chi non si lamenta avverte una certa difficoltà ad arrivare la sera, la routine diventa pesante, molti di noi si sentono affaticati già dalle prime ore del mattino e c'è chi si affatica non a fare, ma solo all'idea di dover fare. D'altronde, siamo alla fine dell'anno, il Natale alle porte con tutto quello che ne consegue e in attesa della vera influenza si sono fatte avanti le forme parainfluenzali, un po' come le majorette che precedono la star. E qui mi fermo perché vorrei sapere da voi qual è la cosa che al solo pensiero vi stanca, che cosa vorreste cancellare dalla vostra agenda. Di nuovo l'indirizzo di posta elettronica, ma nel frattempo io avrei una proposta da farvi. Se noi provassimo, e dico provassimo, a interpretare la stanchezza come un invito del nostro corpo e della nostra mente un po' a rallentare, a fare anche un po' di pulizia, a non sprecare le forze nell'ottica proprio di destinare le energie a qualcosa che ci piace, ci fa bene e ci aiuta anche a stare bene, perché no? Allora, se voi volete provarci, io mi farei dare una mano da un mental coach che è in linea con noi, Giovanni Gabrielli. Bentornato Giovanni. Ciao Nicoletta. Allora, buongiorno a buongiorno, tutti. Buon sabato. Consigli semplici ed efficaci per non perdere la rotta. Sì. Ma senti, ti faccio una domanda. In questo periodo normalmente gli animali cosa fanno? Molti animali vanno in letargo. Sì, quindi tu dici, in cui c'è tu meno che sei... luce fino al 21 dicembre e quindi vanno in letargo perché non si devono, non devono avere problemi di cibo, di stress. Ecco, eccetera. Quindi la seconda domanda che tu mi vorresti porre è perché tu sei sveglio e parli, perché Bravo, non sei perché letargo. Perché noi non andiamo in letargo, perché dobbiamo vivere, perché non siamo programmati per il letargo, ma il nostro corpo e specialmente la nostra mente, che è poi quella di cui io mi occupo, ne risente di questa mancanza lì di luce, eccetera. In psicologia c'è una sindrome, si chiama sindrome da stress natalizio, che sta cominciando ad arrivare. Parte probabilmente adesso col ponte dell'Immacolata. Dobbiamo comprare regali, dobbiamo fare tutte le cose, ma fondamentalmente dobbiamo fare vedere a tutti gli altri di essere felici, di essere buoni, di sentirci più buoni degli altri. C'è una pubblicità che adesso partirà che dice a Natale si può dare di più. Se noi cadiamo in questo tranello del dare di più, dell'essere tutto per gli altri, aumentiamo il nostro stress. Io invito le persone in questo periodo a ribaltare, a cambiare paradigma, diventiamo un po' più egoisti, facciamo attenzione a chi frequentiamo solo persone con cui veramente stiamo bene, non usciamo solo perché dobbiamo uscire, dobbiamo fare l'ulteriore cena di Natale, facciamo i regali solamente a chi sentiamo di voler fare. Il regalo deve essere una cosa che ci diverte nello scegliere, che ci appassiona, che è legato anche a un momento di scambio affettivo. Non facciamo regali a tutti, ma dopo poi lui si offende, non ci offendiamo, anche perché l'80% dei regali che noi facciamo non piacciono. Senti Giovanni, io invito sempre di fronte a questi suggerimenti di fare una prova, Sì. La sì. prova per un giorno, perché sennò sembrano dei consigli di buon senso, sì. Ma ecco, allora proviamo a fare questa sorta di dieta depurativa sì. per questo weekend. Ma per un giorno non non serve, facciamola almeno per un weekend. Facciamo il weekend della consapevolezza natalizia, cioè prima di tutto prendiamo del tempo per noi e per chi, per i genitori che hanno dei figli piccoli, per stare con i figli piccoli, condividere, giocare, passare del tempo, farci una piccola cuccia in casa, fare l'albero, ma fare l'albero per noi, non fare l'albero per fare vedere agli altri quanti siamo bravi a fare l'albero. Facciamo un albero creativo, magari un albero anche che rispetto ai nostri standard è povero, ma facciamone uno differente, facciamo un albero con i libri, facciamo un albero con le bottiglie, proviamo a mettere in gioco la nostra creatività. Facciamo l'albero per il piacere di farlo per noi, non per farlo vedere. Quando io penso che adesso ci sono ormai nelle città i Christmas planner, quelli che aiutano le persone a pianificare il Natale, a pianificare l'albero, a pianificare il cenone, a comprare i regali, mi viene un po' di pelle d'oca. Allora, noi proponiamo quindi a chi ci sta ascoltando di fare questa sorta di weekend per imparare a rimetterci un pochino al centro, di fare pulizia da tutte quelle affanni, da quei doveri che a volte sono inutili, per ritornare al cuore. Giovanni, io voglio salutarti con una frase che sono certa ti piacerà e che mi auguro sia di aiuto anche un po' a tutti noi, perché ci dà delle direzioni. Intanto buon weekend, Giovanni, grazie per essere grazie stato con noi. Ciao. Tre sono le regole principali del mondo del lavoro. Dal disordine e dalla confusione cercate di tirare fuori la semplicità. Nei contrasti ricercate l'ironia. E infine ricordate che l'opportunità risiede proprio nel bel mezzo delle difficoltà. Albert Einstein. E a proposito di opportunità, allora perché non approfittare di questo momento un po' di fatica per andare a fondo del problema? Forse banalmente siamo stanchi perché non riposiamo bene, non dormiamo abbastanza o abbiamo una cattiva qualità del sonno. Quando parlo di sonno, di problemi del sonno e di qualità del nostro sonno, il mio pensiero va subito al dottor Lino Nobili, che è responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Nobili, lei oggi ci dovrà far riposare bene. Allora, prendiamo un attimo di pausa, così lei si prepara. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Mi raccomando, svegli! E poi ritorniamo subito dopo insieme al dottor Nobili, perché parliamo del vostro sonno. Che sia quello la causa della nostra stanchezza? Bah. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Obiettivo Salute Weekend. Veloce, veloce, sono tornata, belli svegli, ma voi come dormite? Poi come vi sentite al mattino? In linea con noi abbiamo il dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano. Dottore, chi non dorme lo sa, perché si sveglia di notte oppure fa fatica ad addormentarsi, ha un risveglio anticipato. Le chiederò naturalmente consigli anche per chi si trova descritto in questo profilo, ma io vorrei oggi mettere la pulce nell'orecchio a chi, pur pensando di dormire e quindi di non avere un problema di insonnia, ha in realtà una cattiva qualità del sonno e quindi non si riposa bene. Ma come fare a capirlo? Non voglio allarmare nessuno, non sempre questa è la causa, però il primo segno di un sonno che non funziona, nonostante la quantità non sia variata, è la presenza di sonnolenza durante il giorno. Un aumento della sonnolenza durante il giorno è il primo segno che qualcosa dal punto di vista qualitativo, se non è cambiata la quantità di sonno, è successo, e in questo caso vale assolutamente la pena di approfondire. In alcune persone può uscire fuori un disturbo anche dell'attenzione, la capacità di concentrarsi. Questo è un segno qualche volta secondario, ad esempio, a certe forme in cui da un punto di vista quantitativo non ci sono alterazioni della struttura del sonno, ma qualitativamente manca un po' di sonno profondo, e questo si ripercuote in queste sensazioni. Quindi se a un certo punto, poco dopo il risveglio, persone che sono sempre dormito bene cominciano ad avvertire un po' di stanchezza e sonnolenza poco dopo ore dal risveglio, un paio di ore dal risveglio, e difficoltà di concentrazione, uno sguardo a come si dorme bisognerebbe farlo. Ma dottor Nobili, quali sono gli esami che mi permettono di capire qual è la qualità del mio sonno? Ma guardi, l'esame per ora che noi chiamiamo ancora il gold standard è quello di misurarlo questo sonno. In realtà abbiamo anche altri strumenti, uno può utilizzare dei diari del sonno, c'è un sistema che si chiama actigrafia, che si tratta di monitorare un po' l'attività corporea durante il sonno, quindi ci dà un'idea indiretta del sonno attraverso l'analisi dei movimenti. Ci sono degli strumenti che si possono comprare anche in vari negozi, ma ci sono anche degli strumenti che sono proprio degli strumenti medicali che registrano anche la luce, la temperatura corporea, e questi ci possono dare delle indicazioni senza fare per forza la polisonografia ogni volta. Bene, bene. Questo quindi mi può dare la possibilità di capire se la qualità del mio sonno è adeguata. Esatto, se nonostante la quantità non sia variata ci sono movimenti durante il sonno, ci sono più fasi di che noi chiamiamo micro risvegli che il paziente non percepisce, ma che comunque hanno poi un effetto negativo sulla qualità del sonno, perché purtroppo il sonno è un fenomeno continuo, per arrivare al sonno profondo deve crescere gradualmente, se noi lo interrompiamo anche con dei risvegli di un paio di secondi non percepiti dal paziente, ecco che il sonno non riesce ad arrivare nella parte più profonda e quindi alla fine non svolge il suo ruolo. E certo, che è quello anche di ricaricarci, certo, di fare un po' pulizia delle tossine che si accumulano nel nostro cervello. Mi ricordo che mi aveva parlato di questa funzione che mi aveva particolarmente affascinato, quello sì, del sonno spazzino, mi piace. Beh, questa è una cosa di recente ed è di estremo interesse, proprio anche perché il sonno potrebbe essere un qualche cosa che ci permette di capire anche alcuni aspetti legati all'invecchiamento, alla malattia degenerativa, che si può accompagnare ad aspetti anche di alterazioni cognitive in cui il sonno forse gioca un ruolo. Lo spazzino, c'è un sistema che permette la pulizia di sostanze tossiche, e questo sistema funziona e lavora molto durante il sonno rispetto alla veglia. Ecco, ecco perché bisogna riposare bene, dottor Nobili, ci vorrebbe la bacchetta magica, ma io le chiederei dei consigli concreti ed efficaci. I consigli concreti per abbracciare quel morfeone lì che ogni tanto ci respinge, come l'abbiamo detto più volte, ma la cosa principale è rispettare i propri ritmi, accorgersi di che ritmo sei, qual è il ritmo di una persona, è sempre molto individuale, e cercare di rispettare quel ritmo, mantenere la cosa più importante è il risveglio, l'orario del risveglio, cercarlo di mantenerlo costante così come quello dell'addormentamento, e sfruttare tutto ciò che la natura ci dà. La luce è un fenomeno, più luce noi prendiamo durante il giorno più sarà buona anche la nostra qualità del sonno notturno. Purtroppo ora andiamo in una stagione in cui di luce ce n'è meno, ma quindi cerchiamo di sfruttarla quella che abbiamo, non consumiamo delle sostanze attivanti nel pomeriggio, nelle ore serali, comunque sia, anche se ci sembra quantitativamente che il caffè non abbia alcun impatto sul nostro sonno, in realtà qualitativamente un impatto ce l'ha se prendiamo il caffè prima di andare a dormire, anche se c'è tutta una variabilità da persona a persona, quindi ogni persona deve guardare qual è il proprio sonno, la caratteristica, il proprio ritmo e cercare di mantenerlo costante, cosa che generalmente poi nel weekend invece non fa. E quindi a chi ci sta seguendo e stamattina si è svegliato un pochino più tardi, magari un'oretta o due rispetto all'abitudine, con il pensiero di dire ma finalmente dormo e recupero quello che ho perso durante la settimana, è stata una buona idea oppure no, dottor Nobili? Beh, il recuperare se ce n'è bisogno è una buona idea, questo è stato dimostrato, comunque noi se siamo in deprivazione purtroppo durante la settimana per le questioni lavorative si perdono quei 20 minuti che si accumulano, quell'ora che noi recuperiamo nel weekend ha la sua efficacia, questo di sicuro nelle qualità del sonno, però sappiamo bene che in alcune persone recuperare il sonno nel weekend dormendo ad esempio nel pomeriggio creano immediatamente la difficoltà di addormentamento della domenica sera, che è una delle le forme più frequenti è il momento dove il soggetto per esempio insonne avverte la sua principale malessere, perché magari durante il giorno si è più riposato e paradossalmente non riesce poi a dormire proprio la domenica sera. E infatti si gira come un sogliolone nel letto, dice proprio domani che devo iniziare a lavorare, stanotte non dormo, poi quando inizia a pensarlo è finita. Questa è una cosa di nuovo fondamentale, la paura di non riuscire a dormire è la cosa principale che ci impedirà di non dormire, quindi quello che noi facciamo appunto con i pazienti è proprio di insegnarli a non aver paura attraverso tecniche comportamentali di varia natura, qualche volta utilizzando anche dei farmaci per cui spegniamo l'interruttore e il paziente non si chiede nemmeno la domanda se dormirà o meno, però è chiaro che il farmaco va utilizzato per un periodo limitato, anche se può essere estremamente utile in alcune forme. Quando il sonno non è adeguato, per quantità o qualità, noi ci sentiamo con le pile scariche, l'attenzione è un po' ballerina. Invece i bambini reagiscono in modo opposto, sembrano iperagitati. Dottor Nobili, è un po' all'età fa la differenza, ecco. La deprivazione di sonno nel bambino si può manifestare con tutte e le due facce nello stesso bambino, con un'alternanza di sonnolenza, per cui magari il bambino che si addormenta anche in classe, o con un'iperattività, specialmente nelle ore serali, cosa che capita abbastanza spesso. Il bambino in realtà ha sonno, ma si attiva e diventa addirittura difficile farlo addormentare, perché poi questo malessere dell'iperattivazione può portarlo anche a farlo essere più piagnucoloso, e quindi è anche difficile riuscire a fargli prendere sonno. Quindi consideriamo che un bambino iperattivo che ha difficoltà di concentrazione qualche volta potrebbe avere di mezzo anche come causa un disturbo del sonno, una deprivazione di sonno. Invece i bambini devono andare a letto, devono dormire bene, perché sennò poi Babbo Natale come fa a portare i regali, dottor Nobili? Se i bambini sono svegli, che girano per la casa e Babbo Natale non entra. Ma non è colpa dei bambini. I bambini di fatto spesso è colpa più dei genitori, perché a parte alcune situazioni i bambini hanno un loro ritmo che parla benissimo. Bisogna come genitori capire qual è quel ritmo e fare in modo che si mantenga. E purtroppo i genitori spesso arrivano a sera a casa tardi, vogliono giocare con i propri bambini e in qualche modo, seppur in maniera assolutamente benevola, alterano un po' il pattern del sonno del bambino che si trova a poi essere deprivato. Dottor Nobili, grazie per essere stato con noi, buon sabato, buon grazie riposino a anche a lei se farà il pisolino oggi pomeriggio. Grazie, buona giornata. Salve, buona giornata. E cogliamo l'attimo, basta un attimo per cambiare il nostro respiro e per rendercelo amico del nostro benessere, per sfruttare l'azione terapeutica del nostro respiro. In linea con noi abbiamo Mike Maric, autore La scienza del respiro. Ciao Mike. Ciao Nico, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, perché io vorrei chiudere questa puntata, siamo partiti dalla stanchezza, proprio con una bella respirazione. Tu nel tuo libro suggerisci proprio la respirazione come strumento di benessere, e noi quando siamo stanchi sentiamo proprio la necessità di dire, no? Tiro un sospiro di sollievo. Mike, un suggerimento per i nostri amici che ci stanno ascoltando. Beh, allora un suggerimento molto pratico quando si è stanchi è quello di allungare il tempo di espirazione. Lavorare sulla lunghezza della fase espiratoria migliora il rilassamento. Quindi questo è il primo consiglio molto pratico, cercando di respirare sempre di pancia. Certo. Abbiamo parlato anche della difficoltà che molte persone incontrano nel dormire bene, anche nell'addormentarsi o avere una buona qualità del sonno. Puoi suggerirci una respirazione che aiuti il sonno o sì, ci predisponga al buon sonno? Assolutamente sì, come sai la qualità del sonno è molto fondamentale, la scienza medica pone attenzione a questo aspetto. Esiste un esercizio che concilia il sonno, quindi chi dorme meglio recupera anche meglio da qualsiasi tipo di stress lavorativo o sportivo. L'esercizio prevede una fase di inspirazione attraverso il naso lunga, senza alcuna forzatura, è una fase di espirazione frazionata. Cosa vuol dire? Che a seguire ad un atto inspiratorio lungo e completo facciamo seguire una piccola breve espirazione e una pausa di apnea, e poi seguire una piccola espirazione e una pausa d'apnea, così in modo tale da frazionare la nostra fase espiratoria in tante piccole fasi espiratorie. Questo va ad azionare a livello parasimpatico e quindi induce un rallentamento del battito cardiaco e ci rilassa. Quindi facciamo un po' delle piccole pause. Sì, esattamente. Un po' a singhiozzo, passami il termine. Come se dovessimo sgonfiare un po' alla volta una camera d'aria di una bici, quindi piccoli soffi espiratori frazionati. Mike, chiudiamo con una respirazione antistress. Guarda, oggi voglio rivelarti una cosa un po' diversa dalle altre chiacchierate che abbiamo fatto. Allora, ti suggerisco a tutti di respirare, come ho detto prima, cioè, variare la lunghezza della fase espiratoria, rendendo quindi il respirone proprio più lungo, ma allargare le narici nella fase inspiratoria. Presente quando si ammicca un sorriso? Quando noi ammicchiamo un sorriso, generalmente allarghiamo anche le narici. Sì. E quindi questa situazione che ci predispone a un atteggiamento anche mentale più positivo, perché se tu accenni un lieve sorriso vedi le cose in modo diverso, allarghi le narici, entra più aria e quindi lavori anche sulla fase inspiratoria. E quindi quando la nostra nonna dice dai, fai un bel respiro che ti passa, fai un bel respiro con il sorriso e vedrai che ti passa. Eccolo qua, questo è il consiglio per chiudere. Ringrazio Mike Maric per essere stato con noi. Vi ricordo il titolo del suo libro, La scienza del respiro. Grazie Mike. Grazie a te Nico, grazie a tutti. Ciao. Grazie a voi che mi avete seguito e vi invito domani a mezzogiorno alla bufala in tavola e poi sempre da lunedì alla domenica sempre insieme a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute. Fatevi un bel respiro. Buona giornata da Nicoletta.